c'è Gigi D'Agostino. Fermati, ascolta. Stai a capire, frate. Gigi D'Agostino. Smile from a veil. Do you

18. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il tuo antidepresso. Rimani con me. Il momento è tremendo. Per piacere, prestiamo attenzione perché non siamo allo snocciolatoio pubblico. Sto mixando, c'è bisogno di concentrazione. Concentrazione. Concentrazione. Concentrazione. Concentrazione. Concentrazione. Concentrazione. Concentrazione. Concentrazione. Vabbè. Sto mixando, c'è bisogno di concentrazione. Questo è il cammino, cammino di Gigi D'Agostino, il tuo antidepresso. Rimani connesso. Sì. Frequenza è codesta e la musica pesta. No, poi dicono che non riesco a fare le rime. C'è Gigi D'Agostino, domani è un bel mattino. C'è Gigi, c'è Gigi, c'è Gigi D'Agostino. C'è Gigi D'Agostino, domani è un bel mattino. C'è Gigi D'Agostino, domani è un bel mattino. Danzante, danzante, danzante, danzante. Proseguiamo sto cammino. Siamo al reparto olive. Non è che siamo qui a snocciolare, eh? Agli altri il palo è la traversa. È la traversa.